English Bit di Giulia Crivelli. To sack. President Trump abruptly sacks the head of the FBI. Donald Trump continua a fare notizia nel suo paese e all'estero e nella scorsa settimana gli ha dedicato un lungo articolo anche il settimanale britannico The Economist, intitolato «Il presidente Trump caccia all'improvviso il capo dell'FBI». Il verbo che ci interessa è «to sack», regolare, «sacked», «sacked», sinonimo non gentile di licenziare, ma sempre meglio di «to fire», che è poi quello che Trump usava nel suo reality The Apprentice, con la mitica frase «You are fired». Ma vediamo sack. She was sacked for refusing to work on Sundays. Fu licenziata per essersi rifiutata di lavorare di domenica. Con un'assonanza con la nostra lingua, to sack vuol dire anche saccheggiare. Rome was sacked in 410. Roma fu saccheggiata nel 410 d.C. In realtà in italiano parliamo del sacco di Roma, l'attacco portato avanti dai Visigoti. Ma il significato è senz'altro lo stesso. Il sostantivo sack, oltre che sacco o sacchetto, persino della spesa, vuol dire anche licenziamento. 400 workers face the sack. 400 lavoratori rischiano il posto. Her work was so poor that she was given the sack. La qualità del suo lavoro era talmente scarsa che fu licenziata. Un'altra parola interessante è abruptly, avverbio che viene dall'aggettivo abrupt, all'improvviso, ma significa anche spiacevole. She was very abrupt with me every time we met. Si è comportata sempre in modo sgradevole tutte le volte che ci siamo incontrati. Abruptness è il nome. Con il suffisso ly, ly, si creano infatti gli avverbi, con il suffisso ness, i sostantivi cute, carino, cutely, carinamente, cuteness, carineria, strong, forte, strongly, fortemente, strongness, forza, e si può dire anche strength. Consideriamo infine head, letteralmente testa, che in inglese viene usato però in tutte quelle occasioni in cui in italiano usiamo capo. She was head of the entire research and development department. Era capo dell'intero reparto di ricerca e sviluppo. To head è anche verbo. She has been appointed to head the marketing team. È stata scelta per guidare il reparto marketing. To be headed vuol dire invece essere diretti. They look as they are heading for divorce. Danno l'impressione di essere avviati sulla strada del divorzio.